Ciao a tutti, mi chiamo Alberto. Sono una guida turistica e lavoro in centro tutti i giorni, da un annetto. Diciamo che è imbarazzante la situazione giornaliera, però secondo me bisogna trovare soluzioni, oltre a fare delle attente analisi come queste, che sono tutte giustissime. Però sinceramente ho sentito poche soluzioni e io sinceramente non sono contro il turismo, come ho sentito. A me il turismo non dà da mangiare e anche a tante altre persone. Sono contro il turismo ignorante e insensato, come è ora a Firenze. Questo è un turismo di massa, è un turismo illogico, ma secondo me in questo problema c'è una grossa soluzione. Io vengo da un paesino di Arezzo, di Lucignano. A Lucignano sono 4.000 persone e il turismo lo potrebbe salvare a Lucignano. Visto che qui ci sono troppi turisti, ci vuole un'organizzazione per mandare persone fuori da questa città verso i centri dove non ci sono più. Prima. Sono troppe persone. È vergognoso camminare in centro a agosto e non sentirsi a casa. E sono d'accordo. Fa schifo che sono così. Ma c'è una soluzione per cui. Lucignano e tantissimi altri paesi vivrebbero con qui. Cioè, al mio paese sono 4.000 persone, non gli parebbe il vero che arrivasse solo un millesimo dei turisti che sono qui. Però cosa fa la città di Firenze per portare avanti questa cosa? Nulla. Basterebbero dei bus, dei volantini che informano sui comuni. Solo adesso ci sono 300 comuni, piccoli paesi medievali incredibili. Penso in Toscana ci sono sui 1.500. Portarli fuori dalla città. Organizzare cose per muoverli dal centro. Fuori dal comune di Santa Croce, Palazzo Vecchio e Duomo. Sono tutti lì, sono. Bisogna portarli fuori. Io ci mangio col turismo, ci vivo, non ci mangio, ci vivo, come tante altre persone. E essere contro a prescindere secondo me è una parolata. Bisogna usarlo, bisogna modificarlo. Basta, grazie. Posso rispondere? Sì. Vorrei solo per notare che c'è un conflitto interno, nel senso che la rete 7 si chiama Rete del Sud Europa verso e contro la turistificazione, che non è turismo. È l'effetto pratico che ha sull'abitare della città, quindi sulle persone, che ovviamente tutti quanti ci mangiamo da turismo, questo è chiaro. Però dall'altra parte effettivamente dovrebbe essere regolata all'interno della città, però ovviamente parlare, cioè a livello territoriale è un nostro interesse assolutamente pensare a livello territoriale, ma io non credo che la distribuzione dei turisti in senso più, cioè potrebbe aiutare la distribuzione dei turisti in senso più ampio, non lo so, cioè piuttosto veramente immaginare un altro modo, un'alternativa in realtà all'economia vigente del turismo, cioè com'è che cambia effettivamente, com'è che il turismo può portare una ricchezza effettiva se si rimane all'interno di un frame di sistema neoliberale, com'è che può portare una ricchezza distribuita a più persone e non alle multinazionali o a poche persone, perché sì, te prendi la ricchezza, nel senso te ci prendi da mangiare, però dall'altra parte in realtà la gestione massiva del turismo, non il guadagno del turismo, al di là della sua distribuzione, tra le persone lavorano per il turismo, per l'industria turistica, in realtà è estremamente impattante ed è anche estremamente va veramente a in qualche maniera va veramente a ridefinire i nostri territori in maniera molto lontana da un territorio che produce materia prima, nel senso materia prima intesa come cibo, che non sia solo per il turista ma che sia per l'abitante, cioè aliena in qualche maniera il processo turistico, aliena le persone quando diventa così massivo, ed è molto impattante. E secondo me, cioè, è diverso parlare di essere contro il turismo a essere contro la turistificazione. Qui stiamo parlando e siamo contro la turistificazione o siamo contro quel modello economico che parla di turismo solo in chiave neoliberale, perché la ricchezza, se fosse distribuita, quella di livello del turismo, sarebbe tutto un altro discorso, ma quella ricchezza in realtà è in mano di molte persone. ed è cioè, quando Antonio stava parlando di come i mobili vengono venduti a Firenze, non è solo il non è soltanto il turista in sé, ma sono prodotti di città che completamente vengono alienate da una proprietà pubblica o comunque comune, che potrebbe essere comune utilizzata per l'interesse pubblico delle persone che vivono la città, e quindi in realtà il livello di discussione è un po' un altro, no? In realtà non si pensava, neanche nelle giornate del festival, di invitare persone che fanno parte, che lavorano all'interno dell'industria turistica, diverse, perché... No, però lì appunto non si voleva indagare, certo, ma noi si voleva appunto indagare questo punto di vista invitando le persone delle giornate a dare le testimonianze, a raccontare qual è la loro esperienza all'interno dell'industria turistica, anche per creare un dialogo tra le diverse figure che ci lavorano. Perché io penso, per esempio, che la guida turistica all'interno della filiera, diciamo, del turismo, abbia anche, certo, una buonissima posizione, però ci sono tante persone... Certo, però ci sono magari altre persone che lavorano nella catena turistica che hanno condizioni molto diverse dalla tua, e sarebbe interessante iniziare a creare un dialogo tra chi effettivamente lavora per il turismo. E infatti noi si pensava appunto, se vuoi ritornare poi, cioè, iniziare a raccontare un po' la tua esperienza anche con altre persone, che speriamo di riuscire a coinvolgere tra tre giorni, noi si pensava proprio di interessarci. Sì, sarebbe interessante. Ah, su questo tema, cioè che prende la delocalizzazione e anche l'accentramento economico, no, del turismo nella delocalizzazione già. Sono dati di ottobre e novembre del Corriere Fiorentino, quindi assolutamente non compagni. The Mall fa 4 milioni e qualcosa in più di visitatori all'anno, il David ne fa 1,7 milioni. Quindi la delocalizzazione in realtà c'è già. Quindi stiamo spostando fuori dal centro di Firenze l'attenzione ai turisti su The Mall, su nuovi centri esterni, sulla nuova, il nuovo grande mall della Piana con lo stadio e i grandi eventi così. E soprattutto, cioè, è anche un discorso di qualità di quello che offriamo al turista. Qua a Firenze cosa offriamo al turista? Offriamo, cioè, un'esperienza di città finta, canonica, plasticosa, ma veramente plasticosa. Offriamo il Duomo acceso tutta la notte. Cioè, da quando abbiamo parlato l'ultima volta in Silvia, cioè ragionato a Parigi a Luna, spengono tutto, ok? La Turifelt si spegne, i monumenti si spengono. Noi in Firenze abbiamo questo viziaccio che la città deve continuare tutto il giorno a vendersi, ma anche la periferia, in realtà il problema è appunto di metodo, cioè non di dove mandi il turista, forse anche, ma di come piani e fai girare il turista, di cosa offri al turista, di che tipo di digitale hai in mente per te e per il turista. Cioè, questa è la critica che anche un pochettino sette le nostre assemblee fanno anche quotidianamente. Ok, va bene che vengono i turisti, ci cambiamo in realtà il modello, l'altro ci cambia tutta la città, però come? Una cosa, secondo me, funziona per il dato punto, nel senso che se uno arriva in americano, davvero, cioè quello che deve fare la foto da Instagram davanti al Duomo, fa anche un tipo di turista diverso. Io sto a Ferrara, e a Ferrara di sicuro che i turisti sono diversi. Perché comunque Ferrara non ha Instagram. Ferrara è una nazione che vende e ci ha lavorato dietro questa cosa, Palazzo dei Diamanti è 30 anni che fa mostre belle, eccetera, eccetera. E l'altra cosa per quanto riguarda la delocalizzazione, non sono sicuro che sia, adesso non ho idea, secondo di quando, non ho ben idea di cosa stai parlando, però penso che comunque il sistema economico che fa vincere questi grandi investitori, che fa vincere il comune, che vuole certificare il centro di Firenze, è un sistema che deve accentrare per forza, perché muove delle grandi masse di denaro e ha bisogno di qualcosa. I mercati immobiliari che funzionano, cioè gli investimenti internazionali immobiliari sono per il 90% a Milano, 5% a Roma, 5% a Torino. Perché perché nessuno va a investire, nessuno della grande finanza, no? Tutti si sono da investire con questa sito. Perché ovvio, perché il mercato di Milano comunque dei valori è un'altra cosa, per quale tu cambi 5 ettari e ci ragioni di milioni, milioni, milioni, e quindi può essere che uno faccia una cosa fuori Firenze, ma è comunque una cosa grossa, enorme, che fa muovere milioni di cose. Il ragionamento, secondo me, sui 4.000 abitanti è sempre la stessa cosa, sempre tenuto, io sempre parlo di cose piccole. E fare le cose in piccolo c'hai contro con i grandi. No, però la cosa di termine è importante, appunto, la cosa di definire, appunto, già turismo è una cosa, appunto, poi c'è il discorso del Gran Tour che speriamo di giorno, ma spiegare meglio, perché racconta, appunto, un ragionamento attorno al viaggiare, no? Che è quello che sta al centro della questione. Il turista di base è quello che è nato dall'Ottocento, che comunque andava a cercare il fatto, appunto, di discorso dei musei, perché non vengono fatti i musei, perché questi non sono neanche turisti, sono visitatori, no? Cioè, appunto, già si usa turistificazione per rappresentare la città, la turistificazione, appunto, non sono i turisti, ma è la città che si adatta ai turisti, quindi la città che si trasforma in parco di attrazione. E in realtà il visitatore che viene oggi non è un visitatore che è interessato all'offerta culturale per la maggior parte, ma appunto più a un'esperienza di villeggiatura, cioè del piacere di muovermi per la città, andare a mangiare una cosa, andare al piazzale, farmi le foto, cioè sono cose che non hanno nulla a che vedere con la storia e quello che effettivamente può raccontare Firenze, ma con appunto una vacanza di un fine settimana, come diciamo prima poteva essere fatto gita fuori porta, ora per Ryanair diventa appunto andiamo a Firenze. Per cui appunto secondo me c'è da distinguere chiaramente questi fenomeni e quindi cosa rappresentano, soprattutto a livello di appunto la proposta, cioè la proposta è cambiare appunto il contenuto del viaggio, cioè viaggiare mette in contatto una persona con un luogo o altro, il lavoro tendenzialmente deve essere sul ragionare su cosa significa questo viaggio, cosa, qual è lo scambio tra chi ti accoglie e chi è accolto, di cosa questo può apportare come una cosa ricca, perché figuriamoci, se non è una cosa bella che adesso moltissime persone possano muoversi, cioè, sicuramente questo rende più difficile una roba come la prima guerra mondiale, dove a un certo punto quelli che erano là sono diventati mostri di sparati. Cioè dal momento in cui comunque le persone passano le fine settimana in giro per l'Europa, però se questa cosa qua deve poi diventare uno strumento per sottrarre la vita, per rendere solamente spettatore quello che si vive, è una perdita degli abitanti ed è veramente una perdita anche del turista, perché probabilmente viene non trova niente, cioè non trova una città, trova un allestimento. Una parte. Esatto, perché se no piazzare Michelangelo, Palazzo Vecchio e Santa Croce, loro andranno in quei posti. Sbagliamo a fare delle proposte. E ovviamente noi, come mio collega, indirizziamo dei posti dove è programmato che vada. È quello l'errore. È la proposta. La domanda se quella proposta, cioè se noi fermiamo quei tre posti, cazzo, è ovvio che vanno lì e sono tutti lì. Dobbiamo proporre qualcosa di diverso. Tanto è importante anche sulle politiche. Cioè, il ragionamento su chi compra è chiaro che c'è chi compra. La questione che, di cui secondo te è centrale nel discorso di set, tanto più ci saranno, cioè, non perché ne faremo parte, ma le lezioni e queste tematiche che sono affrontate con una specialità assoluta. E quindi sì, c'è un. Allora, io penso però che non sia certo. Mi sa che la composizione dell'assemblea che è stata chiamata stasera e le cose su cui abbiamo ragionato, non credo che il punto focale di tutto sia la turistificazione, il turismo o il viaggiare. Penso che il punto di tutto sia un sistema che una città attraverso cui qualsiasi esperienza di vita o di uso del territorio, qualsiasi modo in cui tu ti sposti, lavori, mangi, ti propongi da vivere, è mediato dal fatto che devi avere un rapporto con il tuo territorio, con le risorse di quel territorio e con gli altri che ti stanno attorno, basato sulla diversificazione, che questo provoca la diversificazione che conosciamo noi, che procura, produce le città ambientali, le grandi opere che conosciamo, produce l'abbandono delle campagne e l'urbanizzazione, come è stata poi la storia dei Mondeggi, produce le situazioni di esproprio alle persone che vivono con i modi che non sono legati dal mercato e dal denaro. Fa sì che queste persone spariscano, i luoghi dove queste persone vivono spariscono in favore di posti che invece sono volti a necessitare. Secondo me a questo punto non bisogna tanto parlare di vista che qui si sta prendendo. Io mi spavento anche quando sento certi discorsi, perché noi non dobbiamo proporre delle soluzioni. Noi dobbiamo mettere in crisi un sistema che sta andando verso la catastrofe da solo. Io non voglio proporre il Dio allo supermercato, io voglio farmi da mangiare, perché voglio sapere come si fa, perché voglio con le mie manine essere direttamente responsabile delle robe che mi danno la vita, non per passare per l'apparato di giustificazione per guadagnare da vivere e essere obbligato a sottostare a quelle logiche. Questo senza voler colpevolizzare quella che si trova davanti a certi tipi di lavori o a certi tipi di... Però siamo anche in un posto, veniamo da una cultura, abbiamo una storia di persone che hanno fatto scelte diverse. E le cose, scusate, l'ultimo punto su cui sono veramente, cioè, non è il viaggiare, non è la cultura, non è il coltivare che sono migliori, è come si fanno queste cose, che logiche ci sono, tutto, che effetti, che quali sono le condizioni di possibilità di queste cose nel mondo e quali sono gli effetti sociali, ambientali, ecologici di queste cose nel mondo. Non la volontà che ci mettiamo a noi stupidi umani, con i nostri voli indarici mentali, in quello che crediamo di stare facendo, quello che effettivamente facciamo, creiamo con le conseguenze delle nostre azioni. Due note, intanto sulla questione, diciamo, perché quando si parla del tema del turismo, della classificazione, poi però si perde anche del fatto che non è che è una cosa cattiva in sé, è una cosa che è cattiva per il per gli effetti che ha, per il filtro, diciamo, per diciamo, il modo in cui viene messa in atto, il modo in cui agisce poi la città, però non potrebbe avere quegli effetti se non ci fosse quella scala, cioè se non ci fosse anche quel fattore che rende questa operazione appetibile, che rende questa operazione, cioè, da una parte che la rende possibile e dall'altra la rende appetibile. E diciamo, volevo parlare di prendere quello che diceva Galasso nella prima guida, riguardo alla delocalizzazione a queste proposte che, quanto possono, non mi sembra una cosa assurda, mi sembra una cosa anche ragionevole. Il problema è che credo non sia troppo compatibile con un modello che, come giustamente è stato detto anche prima, si basa su degli attrattori fondamentalmente, cioè su dei poli. Cioè, Firenze è una posizione privilegiata, al suo brand, diciamo, alla sua immagine, che come una Venezia, come una Roma, non perderà mai, rimarrà sempre attrattiva, e quello è il fulcro che spinge la gente a venire, che spinge gli investitori, che spinge il mercato e tutte quelle strutture che poi hanno gli effetti che noi utilizziamo, eccetera, eccetera. Cioè, però senza questa preeminenza, diciamo, secondo me, cioè, non si può pensare che ci sia un modello diffuso, una rete di luoghi ugualmente visitati, cioè ugualmente interessanti anche, cioè non si può neanche far finta, diciamo, che cioè, per quanto io a Lucignano ci andrei veramente volentieri, cioè magari una schiacciata in un aspettino di prendo, però non credo che un giapponese sia spinto a fare la traversata, cioè il viaggio, diciamo, per lui l'Europa è come se fosse un'ora e quattro, insomma, non so, comunque diciamo che poi è una questione di immagine che c'è che c'è costruita dietro, no? E poi magari una città potrebbe avere tutte le bandiere più credibili da offrire, ma secondo le pubblicità, secondo le comunità. Però il punto è che è secondo me proprio strutturale il piano del turismo, il fatto che ci siano delle città, dei luoghi che hanno un'immagine fortissima, che hanno un potere attrattivo fortissimo, e sono quelli che si muovono le persone ad andare, cioè funziona forse qua, cioè funziona abbastanza bene secondo me anche per noi, cioè che magari potremmo ritirarci, no? No, il mio discorso era usiamo quel potere di Firenze per far vivere questi paesi. Sono paesi che stanno quasi per morire. Cioè, siamo questo calcio. Che secondo me avverrà per forza di cose prima o poi, come cercano adesso di vendere le medici, no? Che magari prima tutta la gente andava a Palazzo Vecchio, passava Palazzo Vecchio, una Palazzo Vecchio c'è troppa gente, lo andiamo a far vedere qualche tipo di medici. Però comunque il vero polo attrattore è accettare il posto spazio per cui non è poi la tranquillità e sulla terra continui e l'aria per il la questione della distribuzione del 30 giorni, io avrei più di dubbio, perché per esempio un giorno fa c'era Guardian che dedicava un articolo all'Italia, al turismo in Italia, e consigliava, invitava caldamente le persone a non venire in Toscana, nei posti più turistificati, dice andate nelle Marche, andate negli Abruzzi, cioè in zone un po' periferiche rispetto all'offerta turistica più massiva. Infatti, cioè, probabilmente capisco le motivazioni della nostra vita turistica, cioè del cercare anche di distribuire il reddito, di trovare delle forme di distribuzione del reddito, ovviamente. Però in questi termini vuol dire mettere al lavoro altre fette di territorio, mettere al lavoro altre persone, altre comunità, e non se ne esce in questo modo. Non so se avete notato, nelle edicole si stanno moltiplicando le riviste dedicate ai borghi d'Italia, il borgo più bello d'Italia, tutta una serie di cose che sono tremende. Noi viene da dire, scusate, dimenticate i borghi, lasciateli stare. Perché diventa davvero, io l'allucinato ci voglio andare, non voglio andare in un allucinato turistificato, quindi è un modello economico che va indubbiamente nella discussione. Ci sono, parlare di turismo non è semplice, parlare di turistificazione, parlare di queste cose qui, perché è un problema a più dimensioni, se ne affronterà uno poi sfugge l'altro e così via. È chiaro che è un'industria pesante, ci mette in grande difficoltà. D'altra parte è anche vero che nell'industria pesante degli anni 60, quando sembrava cui i lavoratori erano meridionali, cafoni, sporchi, ignoranti, eccetera, ma le relazioni che si sono create all'interno della grande industria degli anni 60 hanno portato poi a determinare una soppressione del sistema di potere, del sistema di potere economico. Quindi presenta anche quest'altro aspetto, secondo me, ossia all'interno dell'industria turistica c'è da tenere presente anche chi lavora all'interno, chi è sfruttato all'interno, probabilmente anche agire, operare in maniera tale che le relazioni che si possono creare all'interno di chi lavora, di chi è sfruttato, possono anche servire per sovvertire questa modalità di sfruttamento. Ma certo, tanti discorsi che sono aperti, non ci sono soluzioni, però appunto per questo siamo qui per cercare di affrontarli. Anche secondo me, l'idea secondo me è quella di pensare di creare un'alternativa. Cioè, il turista torta che fa quelle quattro cose che gli dicono che per andare da privato in così costa più, ma se vede quello che si vedono tutti, ci sarà sempre. E perché è più facile, perché appunto lo posso mettere a sinistra, mi posso far vedere, ok, quello ci sarà sempre. Però posso creare l'alternativa per il turista che invece vuole vivere un posto. E quindi magari col turista lo porto nel borgo d'Italia, perché può mantenersi con la propria identità e ha quello che non viene a visitare, ma viene a conoscere, viene ad imparare qualcosa. Quindi se non è più un creare un'alternativa per portare il turista che viene con punta di piedi, che viene ad essere di impatto. Questo che pensavo di fare pensare. Io propongo di cominciare a uscire dalla metafora. Noi si è parlato di colonizzazione e invece che essere una metafora, un riferimento così lontano, pensare che siamo colonizzati. Per quanto gli inglesi sono andati in India, si sono appropriati delle sete, delle belle cose, certo, c'erano i lavoratori che continuavano a lavorare, ma morivano anche di fame, gran parte. Credo che noi siamo in questa situazione. Si dovrebbe aggredire la proprietà, è l'industria turistica che non ci torna. È questa grande fabbrica, siamo tutti lavoratori di questa grande fabbrica, ma c'è una contraddizione tra essere lavoratori e mandare avanti la fabbrica e lavorare per distruggere la proprietà, questo modo di produzione. Credo che, insomma, una cosa molto più grossa. Se noi fossimo in una società governabile, democratica, in cui una comunità conta qualche cosa, potremmo agire intelligentemente, distribuire diversamente, non ingannare i turisti con delle mete inventate, false, dei simulacri continui vengono prodotti, no? Per movimentare il turismo. Sarebbe la società migliore, ragionevole, ma non lo è più, siamo oltre. Io, insomma, credo che dovrebbe svilupperò un po' questo argomento. Le vendite, ma funzionano, le vendite che sono state fatte non dovevano essere fatte, non si poteva vendere. La proprietà è tutto. Noi siamo espropriati come le sete degli indiani che fanno nei mercati inglesi, arricchiscono il mercato occidentale. Noi siamo espropriati delle città storiche, anche fisicamente, piano piano saranno trasformate, sono diventate simulati, siamo espropriati, diciamo, di cultura per intendersi, ma questa espropriazione è pesante, vuol dire togliere molto della soggettività di una comunità insediata, insomma, attraverso le opere da secolo, diciamo, anche con tutti i cambi culturali. Questa è la dimensione che si deve affrontare. No, per legarmi un po' anche a quello che dice te, che dice il ragazzo, cioè secondo me la delocalizzazione del turismo non è assolutamente una soluzione, perché comunque la delocalizzazione si basa come poi il mercato neoliberista e il mercato, cioè il sistema economico vigente, si basa sulla centralizzazione di capitali dei luoghi che poi viene distribuito. Quindi la centralizzazione effettivamente a livello ambientale, a livello degli immobili, eccetera, a Firenze risulterebbe un accentramento ulteriore dei sistemi per muovere le persone da Firenze verso l'esterno. Quindi se sei a Firenze, comunque a Firenze ci arrivi e dopo vai nel paesino e nell'Aretino, ma comunque arrivi a Firenze, quindi per la vita dell'orologio continua. Questo per ritornare al punto che faceva anche la ragazza, che quello che il turismo per me, la turistificazione, è in realtà un elemento a cui a cui molte persone sono sensibili, su cui in qualche maniera di cui te tu vuoi parlare per poter creare una per sensibilizzare sul vero centro del problema, che non è tanto il turista o il viaggio o il turismo o il monumento eccetera, è proprio il fatto che si è passati proprio a livello di sistematico da un tipo di industria che era manifatturiera e di altro tipo, si è passati nei nostri territori a un'industria di tipo estrattivista, quindi in realtà non se ne esce, quindi non è tanto un parlare di turista buono e turista cattivo, ovviamente ci può essere viaggiatore consapevole e non consapevole, però al di là di lavorare su come si viaggia, tanto qui stiamo parlando in realtà di come effettivamente parlando di turismo possiamo andare a parlare a tante persone di andare a costruire un'alternativa possibile a l'economia in gente, si sta parlando d'altro. Volevo dire che secondo me l'atteggiamento consumista ci riguarda più da vicino di quanto si pensi, nel senso che io penso che se tutti noi fossimo possessori di una casa di proprietà, molti di noi accetterebbero il compromesso di utilizzare l'Airbnb, di avere quindi un primo o secondo stipendio. Quindi se per paradosso fossimo tutti possessori, tutte le cittadine di Firenze fossero tutti possessori di una casa di proprietà, probabilmente democraticamente la città di Firenze andrebbe nella direzione di sfruttare la casa di proprietà come un modo per avere uno stipendio, ma in questa maniera portando acqua al mulino verso un turismo assolutamente insostenibile, perché ovviamente si distruggerebbe quell'aspetto dell'affitto con dei prezzi per i cittadini, per le persone, insomma, non hanno la possibilità di spendere 30-40 euro al giorno. Quindi io penso che il consumismo è molto più pregnante di quanto, cioè non è noi e loro, è una cosa molto più olistica e molto più pregnante. E quindi appunto mi ricollego al discorso che alla fine bisogna guardarci in faccia e vedere anche noi stessi che azioni facciamo tutti i giorni. Perché io ho tanti amici che sono, come mi ricorderei, noi di cui stiamo parlando adesso, ma che affittano il B&B. Lo so, però... Cioè, quindi è molto più un mosaico di azioni e controreazioni in cui però alla fine siamo davvero dentro un sistema consumistico che ci riguarda bene o male tutti, più o meno, nelle nostre azioni. E questa è una riflessione per dire che non è così semplice, perché se facessimo un sondaggio veramente ai cittadini di Firenze, non so quanti avrebbero la nostra stessa opinione. Magari ci sono tante persone che affittano Airbnb o tante persone che vogliono lo stadio, la piana fiorentina, chi sarebbero d'accordo con un bello stadio, con tutti i servizi, eccetera, eccetera. Oppure le persone che passeggiano per il Piazza da Buoni, che sono contenti di consumare tutte le domeniche invece di andare a fare una bella passeggiata in giro. La mia domanda è quanto veramente i cittadini di Firenze, le persone che vivono a Firenze, hanno nelle azioni, nei pensieri, la nostra stessa visione di questo momento. Forse non è detto che democraticamente la direzione dei cittadini di Firenze è quella che noi stiamo pensando in questo momento. È un problema, secondo me, complesso, perché effettivamente, per come stanno andando le cose, il consumismo sta vincendo alla grande, quindi probabilmente le persone... cioè, ovviamente, finché siamo tra di noi, ce la raccontiamo, però quando vai sabato, domenica, il giro per Firenze o nei centri commerciali, la situazione è completamente differente. Forse quindi Martello non è così tanto isolato nelle sue azioni. E quindi niente, è soltanto una riflessione che non è legittima che facciamo, ma che comunque questo consumismo è molto molto molto pregnante. Probabilmente se andassimo a vedere anche dal punto di vista dei monati, non è detto che il nostro pensiero non verrebbe fuori vincitore. Allora, pochi punti, secondo me fondamentali, anche perché adesso con il brainstorming e comunque lavorando sulla campagna di comunicazione ci siamo trovati ad affrontare questi problemi. Il primo, secondo me, è appunto la democraticità dei processi economici e decisionali come vengono attuati adesso. Cioè, non parlerei di democraticità perché tanta gente è d'accordo con quello che fa Nardella, perché altrimenti apparentemente adesso saremmo in democrazia, vorrebbe. La democraticità la misurerei piuttosto se abbiamo a che fare con gente che non subisce quotidianamente la propaganda, che non subisce quotidianamente il marketing, e che la propaganda e il marketing, soprattutto, cioè nel momento in cui la propaganda e il marketing sono distribuiti, ok, ma viviamo appunto in un mondo che accentra un mondo capitalista in cui la propaganda e il marketing sono nelle mani di pochi che tutti i giorni ci dicono più o meno come pensare e come viverci le situazioni. L'obiettivo, secondo me, è anche un po' il fatto di fare rete, di ritrovarsi qui e di ragionare su queste cose, e anche quello che qui andiamo a comunicare agli altri è: come faccio a uscire dalla retorica? Come faccio a uscire dalla propaganda? Come faccio a essere diverso dalla vizia che è sul polo, che è sul set di Nardella, di dare quanto bello, grazie sindaco mio, mi ha fatto la via? Cioè, sta lì, secondo me, il discorso. Sta a riuscire a scardinare un pensiero. Ecco perché appunto anche trovare le soluzioni poi alla fine risulta difficile, perché è quasi un secondo step del ragionamento. Cioè, intanto vediamo di creare una base comune in cui si possa ragionare, perché adesso non si può ragionare con la gente tutti i giorni, perché manca il lessico base. Questa cosa l'abbiamo vista in Piazza dei Ciompi, cioè se all'inaugurazione di Piazza dei Ciompi tutti i messaggi per Nardella era lì a inaugurare, mettevi la cuccia nell'orecchio alla gente, passavano veramente 5 minuti di discorso. Erano tutti durante lui per dire la pizza, ma anche se lì in inglese di tanto certo, non è che mi piacciono così tanto. No, 5 minuti prima erano convinti che fosse l'opera più bella dell'universo. Sì, ma infatti là, cioè, il risveglio delle coscienze, cioè io lo definisco così, cioè il fatto di come dire, proporre degli strumenti e dei dati alla persona che sta di fronte, in maniera tale che si crei una base quale ragionare in maniera cosciente, quindi per me è una presa di coscienza, una vera e propria presa di coscienza. E allo stessa maniera, però, come dicevo prima, ribadisco il fatto che la presa di coscienza si scontra a volte su delle questioni materiali molto forti, cioè del B&B non è soltanto un argomento così da mettere insieme con gli altri come se avesse lo stesso valore di altri, veramente importante, così come sicuramente ce ne sono tanti altri di cui non sono a conoscenza. Però quando io parlo con i miei amici che affittano la loro casa Airbnb, che sono tanti, perché per fortuna ci sono tante persone che hanno una casa di qualità, e tutti questi discorsi di prese di coscienza poi però si scontrano con il dato di fatto che fa troppo comodo affittare una o due stanze per avere un secondo o primo dipendente. Allora la questione è anche politica, cioè ci vogliono delle strategie politiche come altre città in Europa stanno cercando di fare, per il quale l'Airbnb viene fatto in una certa maniera, così come in altri aspetti del turismo, invece di permettere a 100 pullman al giorno di entrare in città, fanno entrare 10. Quindi da una parte sì, c'è il risveglio delle coscienze e noi facciamo bene a, ovviamente, a lavorare su questo, perché è anche la cosa più bella, ma ma d'altra parte dobbiamo pretendere che a livello politico ci siano delle strategie precise per calmierare un turismo completamente lasciato alla libertà di mercato. E quello è un grossissimo problema. Non è detto che il turismo di massa debba essere eliminato al 100%, non è detto. Però ovviamente lasciato così libero è ovvio che fa soltanto il gioco di alcuni, cioè di chi ci guadagna di più. Però ci vuole delle strategie proprio a livello di giunta comunale decise, perché altrimenti noi possiamo fare quello che vogliamo, ma il prossimo anno hanno deciso di aumentare i pullman che entrano a Firenze, è proprio quel turismo che non ci piace. Cioè, devono essere delle c'è veramente una politica che lascia, oppure la coscienzemente, nel senso che lo sa che fa con le soltanto a certi poteri, lascia il mercato libero, che corre libero, però ovviamente così non andiamo da nessuna parte. Noi possiamo fare tutte le prese di coscienza che vogliamo, ma finché il comune non fa delle precise strategie per calmierare questo tipo di turismo, quello che fa cavolare veramente è una politica completamente assente. Anche l'aspetto della protezione degli artigiani, delle attività, non c'è nessuna politica in questo senso di uso della città in una certa maniera, di difesa dell'artigianato storico. Nessuno. Ora, recentemente sono stati catalogati le attività artigianali storiche, però ci vuole un comune più attivo da questo punto di vista. Se no così è tanto di quello che è capo e va avanti che non lo so. Poi sono mezza cos'è un santo vediamo il Santo Spirito, ma cioè era un paradiso dell'artigianato artistico, cioè delle cose. Il problema è che dal punto di vista è sempre stato quello, e questo anche nel codice dei beni culturali, è sempre quello dell'aspetto materiale, ma l'aspetto immateriale l'Italia è indietro anni e anni rispetto allo stato dell'arte, della cultura europea, per quanto riguarda i ricercatori o come si intende un bene culturale. Viene difeso, soltanto difeso a livello statale, quel bene che è materiale, ma il bene materiale non gli frega niente a nessuno fondamentalmente, a meno che non ci sia un'iniziativa diciamo precisa. Sì, però che cos'è il bene materiale? Quello che è il materiale. Quello è il materiale. Sì. Io adesso ho sentito dei discorsi anche rispetto a quello delle recenze. Io sono sempre più convinta che tutta questa roba sia un po' la nostra. Cioè, non credo che la testa delle persone, del pensiero, riesca a andare al di là delle nostre storie botaniche dentro a un contesto mondo. E credo che il punto sia proprio questo, che quello che era di proporre di delocalizzare da un centro cittadino verso le serre del centro cittadino. Perché tu quel movimento che stai facendo è servire alle stesse logiche anche altri luoghi, che invece tutte quelle logiche diventano imperanti, ma cosa vuol dire? Vuol dire che le persone vivono di quella roba lì, vivono facendo Airbnb piuttosto che facendo artigianato di centralità, piuttosto che facendo, che cavolo ne so io, negli anni 80, che facendo su tutte botte gli affreschi contadino o altre, e queste poi anche già queste sono semplificazioni anche perché l'imposizione dell'agricoltura capitalista significa anche la distribuzione di altri migliaia di modi nel mondo di fare agricoltura, come l'imposizione di un certo modo di costruire le case ha comportato di dimenticarsi di distruggere la cultura materiale, su cui si basava sempre a costruire moltissime altre situazioni diverse, e questo che crea comunità, crea territorio, crea paesaggio, crea beni materiali, crea cultura, è il fatto che una comunità ha il territorio, la propria vita pratica e la propria sopravvivenza ci legata a certe logiche piuttosto che altre. Se nel mondo, in tutti i posti, in pezzi, c'erano le stesse logiche, sono tutti legati allo stesso modo di produrre, da vivere e anche di muoversi nello spazio, di imparare, immaginarsi, perché anche noi siamo figli di questa cosa. E questa cosa arriva a livelli veramente profondi, cioè io mi sono resa conto, ieri sera parlando con mio amico, che per adesso certi temi profondi, eccetera, eccetera, io non posso più parlare con una persona che non abbia almeno una volta nella sua vita. Perché non c'è, non può essere, cioè, se non hai per fare quella roba di quella pratica, no? Ed è la stessa cosa, cioè io, non lo so, mi è capitato di fare delle passeggiate con le grandi opere in Italia, su dei percorsi molto semplici, che avevano scelto apposta per far funzionare con gli economisti, eccetera. C'era una ragazza romana, che cioè, era a camminare sulla strada, ma sta bene studiando molte tante cose. Sì, ora. Cioè, io voglio dire, noi poi siamo proprio una informazione della nostra struttura, mettere sempre la testa, il pensiero di quanto noi sappiamo la presenza pratica del fatto. Sì, ma proprio su questo aspetto c'è una grossissima contraddizione. Io sto cercando un po' di capire, sto cercando un po' di capire. Il turismo, in qualche modo, è una domanda che mangia se stessa. Perché appunto il sistema di protezione messo nella fattispecie del turismo ti porta poi a omogeneizzare tutto. Cioè, il turismo è l'esperienza. Se ti hai sempre la stessa esperienza del turismo, che cosa lo fai a fare il turista se è uguale a te stesso? I centri storici europei sono totalmente tutti quali che più ovunque ci sono tutte le stesse cose, le stesse cose. Andare a vedere un museo è ugualmente una cosa che comincia a diventare interessante, perché c'è sempre talmente tanto gente, c'è sempre talmente tanti bastoni da selfie, direi, anche se certi punti vanno politici, che diventa non è più un'esperienza, ma è la ripetizione e un punto. Allora, che cosa succede? Qui c'è una specie di crisi di sovrapposizione, esattamente come nell'industria, anche nell'industria interessante, anche nell'industria del turismo. Tutto questo modello non è che è profondissimo, quindi questa vostra iniziativa non è, forse è semplicemente un sintomo di tutta questa crisi, la consapevolezza della crisi che sta venendo fuori e che uno poi tira dalla propria parte qui. Che senso ha fare aumentare a dismisura gli studentati che possono alberghi o gli alberghi a Firenze? Qual è la capacità di carico ragionevole con una città così? Quando poi la gente non verrà più a Firenze perché non vuole fare pieno per andare in un posto che non vuole niente perché non hai un vicino da fare per cambiare? L'esempio tipico è San Gimignano. San Gimignano è caduto enormemente perché è stato talmente plastificato dalla presenza turistica che questo gruppo è stato fondamentale. Allora, in questo ambito, in questa crisi, ci dovrebbero essere grandi, delle loro potenzialità politiche. Vedete, questa faccenda è quello che diceva del PD. Allora, la faccenda è che mi dicono che i prezzi degli alberghi di Firenze, quelli di mezza parte, cioè non quelli di lusso, sono molto abbassati perché ci sono i B&B che li fanno una grande concorrenza. Però a loro volta anche i B&B in centro subiscono la concorrenza dei B&B che sono un pochino più in periferia. Per cui è un mito di vivere, non c'è un'unità, come si diceva, è una concorrenza assolutamente spietata, e quindi si abbassano i prezzi, si abbassano i servizi, e fare questa crisi diventa sempre più agevole, sempre più brutto, sempre più inutile. Cioè, c'è il rischio che questa città collassi, che l'industria turistica della nostra città collassi. Su queste cose non dovrebbe pensare le ragazze, perché ci possono essere anche delle potenzialità politiche enormi. Gli studi e l'estero, diciamo, una pubblicazione che si chiama Curare il Crescivismo, hanno tentato anche di valutare proprio a livello del ecosistema, anche della vita nelle città, quale può essere un intento di turismo che è quello che porta appunto al collasso. Però la cosa secondo me che collega un po' a quello che l'intervento che ha fatto il ragazzo che è andato per il tuo, e per cui il turismo è così particolare all'interno di una dinamica economica che comunque rappresenta appunto un'alienazione generale, no? dalla vita, è proprio perché il turismo lo spinge al suo estremo, cioè facendo della città la fabbrica e quindi vendendo di fatto lo stesso vivere, cioè convivere, trasforma in merce, mercifica tutto, cioè lo spazio di vita, le relazioni, e anzi, cioè, è proprio quello, cioè il valore che va a estrarre il turismo. Il turismo non si alimenta di turismo, il turismo si alimenta di beni comuni, si alimenta di quello che la collettività produce e che viene trasformato in un prodotto vendibile. E quindi c'è, questo è il che siamo andati, però davanti a questa cosa qua, quello che si cerca di fare è di vedere intanto se è vero. Allora, primo, l'argomentazione di appunto per sopravvivere bisogna fare Airbnb non è chiaramente una grande argomentazione, non è come dire ah, bene, la prostituzione, cioè, probabilmente se non ha è nata principessa dell'Inghilterra non pensa di mettere in vendita il proprio corpo, no? Cioè è il fatto di non avere la libertà di scelta che ti pone davanti a una scelta obbligata di questo tipo, quello di vendere, di dare via casa tua, appunto, di dare via la tua città, quindi non rappresenta una scelta, primo, e non rappresenta neanche un valore distribuito, perché poi in realtà quello che siamo andati a fare è quello che indagare quello ed è dimostrato a livello di studi, anche insomma si erano fatto un buon lavoro, sono state varie indagini, che per esempio il fatto che Airbnb effettivamente sia in mano, sia uno strumento di concorrenza sleale rispetto a quello che è l'accoglienza turistica. Airbnb di base è suddiviso tra grandi investitori che si nascondono dietro il fatto che devi usare Airbnb, si nascondono dietro il fatto che i dati di Airbnb stanno nella Silicon Valley e non vengono dati, quindi per affittare in nero, quindi con una concorrenza sleale, e per quello fa collassare i prezzi, non perché è più efficiente, perché non paga le tasse, no? E dietro queste Airbnb ci sono, cioè basta indagare, parlare con chi lavora appunto con queste cose qua per vedere che comunque quello che era nato e che un secondo si è presentato come un strumento di sharing economy, in realtà è soltanto una facciata come tutte le altre applicazioni della sharing economy, cioè appunto dietro ci sono già gruppi che hanno 80, 100, 1000 appartamenti in gestione di cui magari possono pagare l'affitto, ma che comunque hanno generato un monopolio. Questa cosa sta già emergendo con lo studio di hotel e altri grossi complessi, cioè sta emergendo di fatto questa presenza di dietro di un potere. Quindi non è effettivamente un fenomeno casuale, c'è chi guadagna, c'è un'espropriazione di valore appunto dal fatto che c'è gente che lavora, che come appunto il ragazzo che è intervenuto prima, oggettivamente i soldi se ne vanno negli Stati Uniti, in altri posti, quindi evidentemente da questa ricchezza c'è qualcun altro che ci guadagna, anche perché insomma abbiamo amici, io un cliente che lavora a pulire le stanze del Four Seasons, che vengono affittate a 20.000 euro a notte a Nicei e guadagnano 6 euro l'ora per contratti precari, cioè è abbastanza evidente che c'è qua c'è una parte di quei euro che spariscono, no? E quindi sì, cioè, la cosa del turismo ha come particolarità quella di mostrare in maniera palese la città che si rende fabbrica, per mostrare in maniera palese come quando ogni rapporto interpersonale, interazione è mediato dalla moneta, trasforma non solo la vita in sfruttamento, ma anche quella parte, diciamo, che poteva essere attiva, quindi di una conoscenza diretta aliena dalla totalità della vita, aliena dalla possibilità di avere una casa, di costruirsi una casa, di costruirsi una città, di potersi fare da mangiare, di potersi fare una propria cultura, perché quella cultura diventa una essa stessa una merce. Quindi la cosa interessante è vedere cosa significa mercificare un processo che tende alla mercificazione totale e l'esistenza dietro di questa fabbrica, appunto, dei padroni su cui è stata fatta la ricerca, che effettivamente esistono, quindi per quanto si sia nascosti, perché forse qualcuno li era andato a cercare anche con le pistole, a un certo punto hanno semplicemente trovato un nascondiglio per nascondersi dietro una grande confusione di cui di fatto sono in grado di gestire l'organizzazione, anche perché le politiche che vengono fatte non sono passive, non c'è un'azione politica, la politica agisce, la politica ha fatto, cioè Barcellona ha fatto anni, decenni per preparare la sua entrata come città nella arcipelago delle città turistiche, e Firenze ha fatto lo stesso con varie fasi, hanno fatto i concerti, hanno iniziato a fare grandi eventi, grandi mostre, cioè questa cosa è incrementata perché viene venduta a basso prezzo, cioè ci sono di fatto c'è una visione globale dietro questa cosa qua, e il fatto che gli altri, la maggior parte delle persone non se ne rendano conto, non vuol dire che non siano sfruttate, che non stiamo perdendo quello che è appunto le loro vite. Quello che noi stiamo facendo appunto in realtà, anche attraverso queste ricerche, è proprio cercare di comunicare questo sia a livello di studio della comunicazione, ma anche con gli strumenti come questa ricerca e come gli strumenti di mappatura che stiamo cercando di mettere, perché stiamo cercando di trasportare i dati che andiamo a cercare, delle mappe che rendano evidente quello che è il fenomeno, e quindi c'è appunto di arrivare a un almeno tipo, appunto, verso un periodo elettorale dove quando si discuta del turismo ci siano almeno una micro parte di popolazione che ha almeno dibattuto e ragionato il fenomeno, diciamo che di sentire insomma proprio sparare proprio sui quali è già sicuramente il nostro obiettivo finale è riuscire ad uscire da tutto ciò, però è una cosa diciamo più tattica che strategica quella di prendere in questo luogo il turismo secondo me come focus, cioè non è un perdere la visione globale, ma siamo. Sì, è interessante il dibattito che si sta sviluppando, si va un po' a cosa dire la sfida. E chiaro, i libri sono tanti. E secondo me si dovrebbe puntare su due tipi di contraddizioni. Io c'ho cioè, sempre in mente, ne parlavo prima, ma ora anche poi, cioè la città turistica è una città fatta. E i giorni scorsi sono andato a Firenze verso le 6:30, 7 di mattina. Era bellissima Firenze, perché almeno riuscivo a vedere gli scorci della città che non si vedono solitamente, sono ingombrati da tante cose. Però in quel momento cominciavano ad aprirsi i reparti della città fatta. C'erano quei danni di baroccini, diciamo, ad esporre le loro merci, c'era il negozio che cominciava ad aprire e cominciava a pulire le vetrine, eccetera. Cioè, i vari reparti, ho pensato, ma questa è la condizione. Cioè, i vari reparti, i vari lavoratori di ciascun reparto cominciavano a organizzare la città vetrina, cominciamo a organizzare questo tipo di vita falsificata, di vita artefatta. Però mi chiedo come è avvenuto nella grande fabbrica fordista, dove il livello di sfruttamento era bestiale. Vorrei essere ottimista in questo senso, non so se è un generale, probabilmente. Però insomma i lavoratori della città fabbrica turistica ci sarà una soglia di sopportazione del tipo di lavoro, del tipo di sfruttamento, sì, certo, c'è la razzializzazione dei lavoratori, indubbiamente c'è un turnover velocissimo in anno, però insomma, questo problema qui dico probabilmente perché ne parlavo con alcuni, cioè ho fiducia nelle relazioni che si possono creare all'interno dei rapporti di coloro che sono gli addetti all'industria turistica, però sono proprio operai dell'industria turistica, non c'è verso. E un'altra contraddizione è di tipo ecosistemico, di tipo ecologico. Cioè, gli abitanti che vivono in questo ambiente di vita, cioè nell'ambiente di vita a Firenze, nell'ambiente di vita Firenze e il suo territorio, beh, probabilmente l'invasione e il deterioramento del proprio ambiente di vita non porta a far emergere anche qui una contraddizione. Non è così evidente. Allora ecco il ruolo di quello che stiamo facendo, degli spazi liberati della città, dell'occupazione, di tutta una serie di effervescenze, no? Quindi sociali, politiche che ci sono. Probabilmente abbiamo questo ruolo, abbiamo questo modo di aprire spazi di pensiero, di aprire spazi di consapevolezza, nella speranza che emerga il disagio di tipo ecosistema, di tipo ecologico. In una città del genere non si può vivere, non si vive, in effetti nelle tipologie ci vuole delle file sull'autostrada di Trentino che vanno nella città. Io sento un continuo lamentarsi di questo, della vita in questa città. Allora probabilmente ci sono degli spazi. Sì, però, io spero possano emergere, ecco. Nel lamento però si vorrebbe avere la massima sottensione. Cioè, anche quando uno propone delle alternative, poi si scontra con quel modo di vivere la quotidianità che è diventato ormai strutturale nella persona. Quindi, sì, è vero, si sente in altre persone si lamentano, però quando li proponi di andare magari in bicicletta in inverno come si fa nei paesi del nord, loro qua dicono sei pazzo, mai e poi mai. E allora, il fatto è che quando una vita quotidiana diventa formazione personale talmente profonda, diventa anche difficile poi andare al di là di lamentarsi, perché poi le alternative che gradualmente ti proponi si scontrano con il fatto che comunque vuole arrivare con la macchina. Questo abbiamo, penso, tutti noi esperienza di o noi stessi o persone che conosciamo, di questo modo di vivere in cui si vuole mantenere da una parte gli standard di comodità e di comfort, e dall'altra però ci si lamenta perché si vorrebbe come magicamente che la macchina arrivasse al beneficio in maniera lineare. Allora,